La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori. Buon anno, se non mi avete sentito già darlo a questi microfoni questa mattina. Buon anno a ciascuno di voi, grazie per l'ascolto in diretta o in podcast. E l'indirizzo, così se mi rimandate, vi rimando anche voi gli auguri, ma naturalmente non solo per gli auguri, per qualunque cosa. La versione di Oscar @24.it. Beh, io mi congratulo con, tra l'altro, i 17. Che tra il 31 e il primo dell'anno 17 ascoltatori che mi hanno mandato proposte di temi, e devo dire la verità, alcune molto buone, quindi seguiranno nei prossimi giorni, tra cui una fantastica che riguarda i giovani, che mi servirà un po' di tempo per metterla in piedi bene, ma lo farò senza dubbio. Sto rispondendo, questa è l'unica risposta che ancora non ho dato, ma la faccio appena finisco la trasmissione. Allora vi dico subito di che cosa parliamo oggi. Se volete potete intervenire in diretta all'800240024. Diciamo che mi interessano in particolare l'opinione di ciascuno, ma diciamo tre particolari sottoclassi di portatori di interessi. Primo, se siete studenti universitari o se volete parlare in ragione della vostra esperienza, magari pregressa, di studenti universitari. Secondo, se siete docenti universitari o ricercatori universitari di diverso ordine, grado e titolo. Sapete che in un'università italiana il problema dei ricercatori, come vedremo, è ancora aperto. Terzo, se siete genitori, in particolare mi interessa in base a cosa tentate di cooperare all'orientamento dei vostri figli per la scelta dopo il ciclo delle superiori dell'istruzione terziaria, cioè dell'università, per chi continua, naturalmente premessa, questo è ovviamente un tema sul quale io devo andarci con grande delicatezza in ragione del fatto che, come sapete, la laurea non ce l'ho. Detto questo, lo spunto per parlarne però è il ranking, la classifica annuale delle università italiane, pubbliche e private, che trovate sul numero, oggi in edicola, del Sole 24 Ore. Quindi abbiamo un ranking generale delle 61 università pubbliche e delle 14 atenei non statali, e lo ricordo prima di presentarvi l'ospite che il criterio con cui viene effettuata questa graduatoria generale è fatto dalla media dei punti raccolti attribuendo a 100 di ciascuna migliore università, per poi graduare le altre rispetto al 100 della migliore università, raccogliendo in maniera tra virgolette scientifica ben 12 indicatori diversi. Di questi, due sottoclassi di indicatori ci sono, uno che riguarda la didattica, l'altro che riguarda la ricerca. I tre indicatori della ricerca, per esempio, sono quelli che si desumono dalle valutazioni di qualità della ricerca, che sono da alcuni anni sono entrate nella prassi ordinamentale della nostra università, e quindi c'è un criterio di qualità della produzione scientifica misurato dai giudizi ottenuti dai prodotti di ricerca nelle valutazioni dell'AMBUR. Un secondo indicatore è quello della competitività, e per competitività si intende la capacità di attrarre risorse esterne per progetti di ricerca, per esempio quanti bandi si riescono a vincere per Horizon 2020 della comunità europea, oppure quanti beccano individualmente la borsa ICR ma la spendono poi in università italiana. Il terzo criterio per la ricerca è quello della qualità dei dottorati, anche questo si desume dalle valutazioni che fa l'AMBUR. Per invece gli indicatori della didattica ce n'è uno sull'attrattività, cioè la quota di immatricolati che viene da una regione diversa da quella in cui ha sede l'ateneo. La sostenibilità, che cos'è la sostenibilità? È il numero medio di docenti nelle materie di base che caratterizzano e definiscono ogni corso di studio, per vedere. Questo è un indicatore che dà l'idea della solidità della struttura docente, per così dire, nelle architravi degli insegnamenti. Poi gli stage, cioè le quote, la quota in cui si attribuiscono crediti formativi, guardando la percentuale di questi di crediti ottenuti in stage sul totale di quelli maturati dagli studenti, poi la mobilità internazionale, le borse di studio effettivamente erogate, un coefficiente che riguarda la dispersione, cioè la percentuale di immatricolati che si disperdono, che mollano, e che non è chiaramente un buon indicatore di qualità, l'efficacia si misura sia in base al numero di crediti che ottiene mediamente lo studente, sia in base a una valutazione, il voto che danno gli studenti università per università, vedremo che alcune poi non lo dichiarano, e naturalmente c'è anche un indicatore che riguarda l'occupazione, cioè la percentuale di studenti occupati secondo la definizione Istat a un anno dal titolo. Allora, è una graduatoria, siccome poi queste due subgraduatorie in media, raccogliendo il punteggio dei 12 indicatori, compongono ovviamente una classifica generale, e dando un 50% di peso, questo falso alle 24 ore, alla ricerca, e un 50% alla didattica, potrebbe essere, naturalmente si può discutere tutto dei pesi, però questo è il peso che viene dichiarato e praticato dal sole 24 ore, e in base a questo, nella classifica generale, a stare in testa alla graduatoria degli Atenei statali c'è Verona, e poi si scende, Verona, Trento, Politecnico di Milano al terzo posto insieme a Bologna, poi Milano Bocconi al quinto posto, sesto Siena, Padova e il Politecnico di Torino, al nono Venezia Ca' Foscari, al decimo il Piemonte Orientale. Vado invece agli ultimi posti dal cinquantesimo in poi: al cinquantesimo Stranieri di Perugia e Sassari, 52esimo Reggio Calabria e Mediterranea, 53esimo Urbino Carlo Bo, al 54esimo tre diverse università, Napoli la seconda università, poi Palermo e Catania, al 57esimo la Napoli Federico II, 58esimo Bari e Cagliari insieme, 60esimo l'Università della Calabria, 61esimo Napoli Partenope. Come potete vedere, tranne Perugia, tutti dal 50esimo in poi sono atenei meridionali e delle isole, senza eccezione, tranne una, cioè quella, anzi tranne due, tranne gli Stranieri di Perugia e la Carlo Bo di Urbino, che è al 53esimo posto. Per quello che riguarda invece la classifica degli atenei non statali, il primo, al primo posto Roma Luis Guido Carli, qui che devo dirvi, è chiaro che c'è un possibile conflitto di interessi, perché la Luis è di Confindustria, però io mi fido del criterio con cui Sole 24 Ore gradua e mette insieme le due graduatorie. Al secondo posto la Bocconi di Milano, al terzo la San Raffaele di Milano. Delle 14, gli ultimi tre posti sono la Unint, la LUM Casa Massima di Bari e la 14esimo posto la Core di Enna, molto discussa perché nasce dall'iniziativa di Crisafulli, un politico del PD, insomma se ne è discusso molto di questa 14esima università privata in collegamento con la Romania per medicina. Ma detto tutto questo, l'interesse di questi graduatori dei 12 indicatori, e siccome riguardano criteri molto diversi, è per me molto importante, e la domanda che faccio innanzitutto ai genitori è: ma voi le usate queste ranking italiane e internazionali per tentare di fare un discorso con i vostri figli negli ultimi anni di liceo e capire che invece delle vocazioni serve guardare concretamente anche come funziona il mercato del lavoro, gli inserimenti, il meccanismo di addensamento per chi pensa poi di fare carriera universitaria, dei ricercatori che siamo ben lungi dall'assorbire, eccetera eccetera, in cattedra e così via? Le usate queste ranking, oppure rimangano produzioni cartacee senza nessun utilizzo? Se siete docenti, vi ci riconoscete oppure sostenete che qualunque sia il ranking, quelle internazionali sono molto contestate da molti docenti universitari, e anche queste italiane secondo voi non funzionano? Per me, per quello che io mi occupo di allocazione di risorse pubbliche, queste robe dovrebbero essere invece l'ABC per dare ancora più di quanto non si dà del Fondo Universitario Nazionale alle migliori. Sì, io penso che sia, fine della mia introduzione, una perfetta ipocrisia quella di credere che il valore legale del titolo di studio significa che il mercato riconosca uguale valore a analoghi titoli conseguiti in posti diversi. Tutti sappiamo che non è così, questo riguarda i politecnici, le facoltà di medicina, le facoltà di fisica, di matematica, tutti sappiamo che non è così. Allora, secondo me il ranking dovrebbe essere il criterio attraverso il quale È vero che abbiamo molto migliorato, come sentiremo dal nostro ospite, la quota che prima era quasi assente anni fa, di premio del merito, perché la resistenza per l'eguaglianza, l'egualitarismo nella struttura universitaria era molto forte. Ma io credo che bisognerebbe andare ancora più avanti. E la mia preghiera è, cari genitori in ascolto, usatele queste graduatorie. Cioè, siccome non credo affatto che i vostri figli leggano solo 24 ore, purtroppo, tranne rare eccezioni, soprattutto tra chi è già universitario, queste cose, come le graduatorie dell'estero, le più prestigiose, a seconda di cosa vuole fare il vostro figlio, ce ne sono di riferimento, dovrebbero essere il pane quotidiano per l'orientamento. Altrimenti noi otterremo sempre tre cose. Primo, una percentuale di dispersione molto elevata. Secondo, laureati che finiscono in posti di lavoro, una percentuale elevatissima nel nostro paese, che non premia affatto le skills che credevano di maturare attraverso il conseguimento con anni e spesa, ovviamente, delle loro famiglie e loro, e magari secondo i lavori utilizzati per ottenere i titoli. Terzo, purtroppo, e questo è il punto di fondo e ho finito davvero, una istruzione terziaria che resta comunque molto lontana da ciò che serve davvero, da ciò che domanda il nostro paese. Faccio un solo esempio e mi taccio. Più del 40% del totale degli iscritti all'università in Germania frequenta corsi, diplomi, di laurea, eccetera, eccetera, professionalizzanti, che nella realtà del nostro paese mancano ancora praticamente, mentre lì ci si è dati, in coerenza a un modello duale che parte già dall'istruzione secondaria, un modello di specializzazione per la quale non si ha alcuna remora nel coinvolgere direttamente le imprese nella definizione dei corsi, delle materie, degli insegnamenti, dei laboratori che hanno parte e dignità nel corso per il conseguimento del titolo assolutamente paritaria se non prevalente a quella delle informazioni frontale in aula. Per questo nella realtà tedesca ci sono due università specializzate, per esempio, per quello che riguarda le materie politecniche nel settore automobilistico, pensate un po', eccetera eccetera. E comunque tutto questo lì fa parte di una tradizione del modello duale che da noi manca. Però taccio, perché queste sono sicuramente stupidaggini, mentre invece abbiamo chiamato un esperto vero, che è stato rettore, è stato docente prima che rettore all'Università di Bergamo, e ex presidente della conferenza dei rettori, è coinvolto direttamente nello Human Technopole per l'area post-Expo, quindi ha da decenni che ha visto dal di dentro e ha tentato anche di cambiarla, perché sono in questo stato più volte osservatore esterno, glielo riconosco, la vecchia regola dell'università italiana, cioè il professore e ingegnere, come titolo, Stefano Paleari. Grazie di essere con noi. Grazie a lei, Gino. Buon anno. Allora, buon anno anche a lei. Corregga qualunque delle stupidaggini che posso aver detto. Però lei dice nel suo commento di oggi che in buona sostanza ci sono sì alcune cose di ombra, ma ci sono alcune luci da sottolineare proprio attraverso una graduatoria di questo tipo, che lei dice fa vedere come c'è una... ci sono cose in movimento positive. Ce le vuole, secondo, sintetizzare e indicare? Sì, io ho detto che ci sono delle cose positive in movimento per in qualche modo far presente che l'università oggi sta raccogliendo i primi frutti di un investimento verso il merito, verso la valutazione, verso le classifiche, che è stato fatto tanti anni fa. Ha determinato in tutte le università, sia quelle tradizionalmente più forti che in quelle tradizionalmente più deboli, anche una reazione positiva. Io uso sempre un termine di paragone ferroviario, che è in tutte le cose, in tutte le città c'è un vagone lento e un vagone veloce. Una buona politica è quella che incentiva il vagone lento ad andare più veloce senza rallentare quello che già va più veloce. E quello è quello che sta succedendo nell'università italiana, e questa classifica in qualche modo lo fotografa, perché noi vediamo delle realtà nelle aree più deboli del paese tradizionalmente che stanno migliorando molto la loro posizione, e questo risultato è anche l'aver accettato la logica del merito, che vuol dire due cose in particolare. Sul lato del generale della didattica e in particolare dell'organizzazione, l'accettazione dei costi standard. Io vorrei che le altre parti della pubblica amministrazione prendessero l'università come punto di riferimento per adottare i costi standard. Perché è stata un'area, lei ha ragione nel ricordarlo, perché in realtà nel dibattito generale sui giornali non si perde di vista questa cosa. Cioè è stata l'area della pubblica amministrazione in cui l'estensione è stata più vasta, molto più che in sanità. È così, e io sono molto onorato di avere presieduto la conferenza dei rettori quando partivano i costi standard, perché ricordo le discussioni tra coloro che non ne avrebbero beneficiato e coloro che invece ne hanno beneficiato. Alla fine si è trovato però un punto di incontro, e cioè i costi standard devono essere applicati perché è cosa giusta, è cosa equa, fa parte di un principio di equità nel consumo delle risorse pubbliche, ma devono anche essere applicati con gradualità. Noi oggi siamo al 28%, dobbiamo salire, credo, fino a 2/3, fino al 66%, quindi siamo a metà strada. Sul totale dei costi. Però, senta, la questione della percentuale del Fondo Nazionale graduato secondo ciò che viene misurato come output di qualità per la didattica e la ricerca, lo sappiamo, ci siamo dati gli strumenti, stanno evolvendo nel tempo, ma ce li siamo dati rispetto a quando non c'erano. Lei lo sa che moltissimi dei suoi colleghi docenti su questo hanno esercitato fortissime resistenze. Lei dice siamo comunque già arrivati a una percentuale che ci porta nella parte alta europea, ma non si dovrebbe fare di più proprio a fronte dei tagli che ci sono stati, e sono stati belli pesanti dal 2008 all'università? È proprio così, quando ci sono poche risorse, quelle poche che ci sono vanno utilizzate con la massima razionalità. Io credo che siamo più di metà della strada, nel senso che siamo anche filosoficamente in quello che gli inglesi definiscono punto di non ritorno, no returning point, e chiaramente proprio perché noi dobbiamo convivere con delle risorse che sono stiamo commettendo un errore, perché chi ci ascolta non ha idea quanto ammonti il Fondo Nazionale Universitario che viene attribuito poi ai diversi atenei secondo diversi criteri. Più o meno su che ordine di grandezza siamo? La ricordiamo ai nostri ascoltatori. Siamo sull'ordine di grandezza dei 7 miliardi contro i 22 miliardi francesi e i 25 miliardi tedeschi. Ohimè. Questo è tanto per darvi un'idea, il costo della sanità è 110, il costo della scuola è 42, il costo della previdenza è 270. E di questi 7, nel 2016, quanta parte è stata data guardando gli indicatori di qualità didattica e ricerca dei diversi atenei? Diciamo la metà del totale oramai è data secondo logiche che vengono definite competitive, cioè se fai ricevi, se non fai non ricevi. Ok. Questo naturalmente però scatena altilai da parte di chi sta nella parte bassa della classifica, perché dice più si adottano criteri di questo tipo, più per noi a fronte dei tagli che abbiamo avuto sarà sempre più difficile risalire la scala. Chi lamenta questo ha ragione o ha torto? Ha ragione nella misura in cui questo viene fatto come dire, in un contesto di contrazione delle risorse, quindi non per migliorare la qualità del sistema, ma in qualche modo per metterle in difficoltà. Ha ragione quando dice che non deve essere fatto tutto d'un colpo e quindi vanno messi in qualche modo delle clausole, delle soglie di salvaguardia, ma se si fa questo alla fine sarà un caso, ma la conferenza dei rettori sia con me sia con l'attuale presidente ha votato in favore di queste misure e quindi vuol dire che se applicate con la giusta intelligenza sono accettate anche da chi in un primo tempo può essere penalizzato, ma poi ha le leve per migliorare e riprendere una posizione. Perché io sono convinto che nel nostro paese, proprio per come sono reclutati i docenti, che non sono reclutati secondo le logiche delle squadre di calcio dove chi ha più soldi recluta i migliori, ma l'abilitazione a livello nazionale, c'è una qualità diffusa che va valorizzata e può essere valorizzata solo se si misura. Un minuto di traffico e torniamo col professor Stefano Paleari a parlare di questa graduatoria. Però la graduatoria del Sole è, come potete capire, uno dei tentativi per dare degli indicatori concreti, per misurare agli occhi di tutti coloro che ne compongono la comunità delle università italiane, studenti, docenti, personale tecnico, ma soprattutto a coloro che devono volgersi all'università per i servizi di qualificazione del proprio capitale umano, per tentare di capire dove vale la pena più che altrove farlo. Ovviamente anche i costi sono diversi, ricordatevelo. Torniamo tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta col professor Stefano Paleari, ex presidente della conferenza dei rettori, ex rettore a sua volta, docente universitario. Stiamo parlando della graduatoria che trovate oggi sul Sole tra università italiane, gli atenei statali e non statali, e abbiamo visto come in realtà passi in avanti li abbiamo fatti sia per misurare con criteri di misurazione della qualità della didattica e della ricerca, sia per quantità di risorse sul totale di quelle nazionali dati secondo appunto indicatori di qualità e non in termini egualitari nel sistema universitario. Io però, siccome eravamo arrivati al punto della, dei meccanismi attraverso cui si sale in cattedra nel nostro paese, lei resta critico sull'intervento che è stato fatto per quello che riguarda i ricercatori, se non ho capito male, perché in effetti noi la scuola ci siamo mossi col criterio impostoci dall'Europa, dobbiamo regolarizzare tutti i precari, sappiamo che non ci si è riusciti di botto, ma comunque quello è l'obiettivo ed è imposto dai tanti anni in cui eravamo sottoposti a una procedura di infrazione europea per aver veramente oscenamente abusato del precariato nella scuola. Non è che lo stesso criterio sia valso nell'università, perché con le misure che sono state adottate ci saranno migliaia di ricercatori che alla fine restano fuori, è così? È così, ma il vero problema non è quello di regolarizzare i precari, ma è quello di fare in modo che non si producano patologicamente tanti precari. Per fare questo bisogna essere molto chiari, cioè i bravi devono entrare presto nell'università e quelli che non sono all'altezza per entrare nell'università devono capire subito che non è parcheggiando un po' intorno che prima o poi riusciranno ad entrare. Questo è un fatto che va chiarito. I veri penalizzati di questi tagli degli ultimi anni sono stati i giovani. Se lei pensa che 12.000 professori ordinari, solo 4 hanno meno di 40 anni. 4 su 12.000. 4 su 12.000 e nel 2008 erano 500. Si dice sostanzialmente che noi abbiamo chiuso il Telepass all'ingresso lasciando aperto il telepass in uscita. Io non sono critico sui provvedimenti che danno più risorse all'università, ci mancherebbe altro. Dico che oggi l'emergenza nazionale, forse non solo per l'università, e in questo senso qualche segnale i giovani l'hanno dato recentemente, sono proprio giovani. Ma oltre al fatto di avere la pubblica amministrazione in tutti i paesi OCSE di età media più elevata, perché questo riguarda tutta la PA italiana, aggravata dal blocco del turnover in questi anni, però è così. La mia banale impressione è che questo dato anagrafico delle corti anagrafiche che vi ha ricordato tragicamente nella sua entità il professor Paleari è la vera risposta poi al perché tanti nell'università italiana, non trovando tra chi ha più di 30 anni, tra i 30 e i 35 anni, insomma gli anni decisivi del post-dottorato per avere incarichi provvedimenti di ricerca, cattedre eccetera eccetera, se ne vanno fuori. E questo è il punto. È così, io le ho anche un aneddoto che è veramente singolare. Quando sono stato eletto nel 2009, rettore, avevo 44 anni ed ero considerato un episodio. Sì, esatto. Oggi, l'età media dei rettori è inferiore a quella dei professori, il che in qualche modo fa anche abbastanza ridere. Non c'è paese al mondo nel quale si verifica una cosa di questo genere. Quindi io chiedo, visto che le risorse sono poche, quelle poche che si utilizzano, che si utilizzino per interventi mirati volti a fare in modo che i giovani bravi abbiano un'opportunità e quelli non bravi cerchino altre strade, facciano qualcos'altro e non si illudano per il fatto di dover prima o poi entrare nel mondo accademico. Appunto, bando alle illusioni, io questo lo dico alle famiglie, oltre che ai giovani che devono decidere che percorso fare nell'istruzione terziaria. Sandra ci chiama da Treviso, prega Sandra, ci dica. Buongiorno a tutti. Sì. Io volevo portare la mia testimonianza come genitore che lo scorso anno ha seguito la figlia nella scelta dell'università. Con che criteri? Quindi i criteri era innanzitutto seguire le passioni del figlio, quindi verificare una volta capito quali erano le passioni, quali potessero essere le facoltà che poteva scegliere, ma anche quelle che io come madre di due figlie monoreddito potevo sostenere economicamente. Sì. Perché la passione è importante, ma poi bisogna garantire il percorso scolastico fino in fondo, cosa che soprattutto per famiglie come la mia è abbastanza difficile perché ci sono vari problemi, cioè la ragazza che va fuori sede, certo, che quindi ha bisogno di rimanere certo. In luogo, deve vivere, deve acquistare libri, deve partecipare a stage, deve fare viaggi anche legati alla facoltà che ha scelto. Chiarissimo, signor, ma alla fine secondo lei la decisione a cui si è pervenuti è una decisione che l'ha... È stato un giusto compromesso, nel senso che io abito in provincia di Treviso, mia figlia ha scelto un'università che ritengo molto buona a Trieste, con sede a Gorizia, che è Relazioni Internazionali e Diplomatiche. Posso farle una domanda, signora? Ma nella valutazione di entrambe, di sua figlia e sua, nella scelta, quanto ha pesato il fattore occupazione, domanda di mercato, possibilità di occupazione a breve con retribuzioni medie di un certo tipo, eccetera. 80%. Ah, ecco, cioè questo mi rassicura molto, a dire la verità. Tra l'altro, io chiedo al professor Palaina, a ringraziare Sandra, io mi augurerei che molti facessero come Sandra. La mia esperienza diretta e chi conosco mi dice: no, mio figlio vuol fare questo e farà questo. Io ho molti dubbi su questa modalità, che accentua un'università poco professionalizzante come il modello italiano. Però chiedo al professor Paleari se c'è una cosa che continua a stupirmi tra i diversi indicatori raggruppati nei 12 su cui fa il ranking complessivo, poi il Sole 24 Ore, e trovare che nella casella occupazione, ripeto, la percentuale di occupati, secondo il criterio di occupati, a un anno dal conseguimento del titolo, che proprio diversi degli atenei non statali non la dichiarano, e tra questi Bocconi, la Luis di Confindustria e la suora Orsola Benincasa. A dire la verità, tutte quelle statali oramai vengono rilevate da questo punto di vista, tranne il Politecnico di Milano, e rimango abbastanza perplesso, perché a non dichiararla sono le università da cui uno si aspetta il 100% di occupati, almeno questa è la cosa che gira. Non è un po' un'anomalia, professor Paleari? No, direi di no, queste università hanno delle loro banche dati, ecco. E in qualche modo, voglio dire, sono proprio università che fanno dell'elemento dell'occupabilità, esatto, un loro punto di forza. Quindi no, lo voglio precisare a chi legge il Sole e dice: ma come, Politecnico? No, perché di quelle, se uno vuole iscriversi lì, lo trova, ecco, la rilevazione è fatta dall'università. Certo, però la forbice tra atenei statali dell'occupabilità è pazzescamente elevata, perché voglio dire, i laureati a Catanzaro sono il 40% occupato. Vero che in Calabria la disoccupazione resta molto elevata, ma per dire, nel centro Italia ci sono università dove la percentuale non sale oltre il 60%, rispetto a, che ne so, Brescia l'82%, il Politecnico di Torino ovviamente l'82,7%, Milano il 77,5%. Quindi, professor Paleari, è vero che le università sono valutate diversamente dal mercato del lavoro? Ma questo è vero soprattutto perché le università non offrono tutti gli stessi corsi di laurea. Lei ha fatto l'esempio di Brescia, dove un terzo degli iscritti sono di medicina. Medicina è un corso a numero chiuso, dove l'occupabilità in qualche modo è quasi garantita da fenomeni programmatori. Resta il fatto che le università non sono estranee alla società, e le differenze geografiche nel nostro paese in tema di occupabilità sono altissime, e il vero problema, lei prima citava il caso della Germania. Noi abbiamo gli stessi studenti universitari dei, sì, tedeschi, solo che i tedeschi hanno, oltre a questi, 800.000 studenti, esatto, che fanno le Fachhochschule. Esatto. Allora, se noi vogliamo smuovere un po' anche il tessuto economico produttivo, è quello tedesco, dobbiamo fare in modo che non è sottraendo. No, aggiungendo, ha perfettamente ragione, ha fatto benissimo a dirlo. Le Fachhochschule sono appunto le accademie professionalizzanti di cui parlavo io. Non so se mai ci sarà la sensibilità nella politica italiana per fare questo discorso. Lei che dice? Vero, nel senso che oggi il problema non è più rinviabile. Noi, esatto, abbiamo tassi di disoccupazione giovanile, da rivolta interna. Questa, allora, sono le strade da battere per affrontare quel fenomeno, non i bonus. Questa è la mia opinione, a nome del professor Paleari, che ringrazio di essere stati con noi. Guardate questo ranking perché è utile, soprattutto in famiglia. Continuate sulla 24, appuntamento domani mattina con me, ad Attenti a noi due, alle 8:10.